Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Marcinelle, 15 agosto 1998. Storia di un mostro. Difficile immaginare l'esistenza di quella tana. Solo lui, Mark, e sua moglie, Michelle, conoscevano il segreto. Le ragazzine, le prigioniere, le loro schiave erano quasi murate vive. L'olio della lucerna che l'orco, il carceriere, ha concesso alle due piccole per rischiarare il buio fitto della cantina interrata e che crea ondeggianti figure mostruose sulle pareti sbrecciate sta per finire. La rete arrugginita, inchiodata a terra con uno spettro di materasso lurido e due copertacce lise, è appoggiata contro lo spesso tavolato che fa da porta e sigilla l'apertura di una galleria che porterà chissà dove. Di fronte un'altra porta bassa, robusta e chiusa a chiave. Sabine Dardenne, 12 anni, e Letizia Dailetz, 14, le due schiave, le vittime designate, dormicchiano esauste, drogate dalla fame e dalla paura. Poi i rumori. Sono passi, qualcuno cammina sopra le loro teste, si sente. Nonostante la spessa soletta di cemento che divide l'ampia cucina rurale dallo scantinato, filtra sinistramente sopra di loro, fino a loro. No, no, singulta Sabine, è lui, il mostro, il capobanna. Mark l'ha detto. Viene per ucciderci, non deve trovarci. Oh signore, Letizia salta in piedi, ma la catena con il lucchetto che le lega la caviglia alla branda la fa inciampare nella ciotola con gli avanzi, quasi un pastone da cani che si rovescia sferragliando. Cade e si rannicchia urlando, piange, trema come una foglia. Sabine soffia sul fiume e la raggiunge. Taci, nascondiamoci, mormora, e insieme cercano di arrotolarsi nella coperta. Sono completamente nude, sporche e puzzano. Da giorni sono chiuse, sigillate in quel buco fetido, terra battuta sotto i piedi e salnitro sulle mura. È estate fuori, ma piove da ore e là sotto l'umido penetra nelle ossa. Da quanto tempo non hanno più visto o sentito nessuno? Ma ora? Ma il loro è un dramma senza fine, cominciato per Sabine il 28 maggio, 80 giorni prima, con un furgoncino, un Renault Trafic bianco guidato da Michel Lelievre, 25 anni, tossicodipendente che le si è fermato accanto per inghiottirla. Un attimo e nel vano posteriore sono comparsi i baffi di Marc Dutroux, mandante del rapimento e futuro aguzzino e stupratore di Sabine. Poi il nulla e il risveglio in una casa sconosciuta, lontana, schiava dell'orco e delle sue voglie. Sabine è stata minacciata, abusata, lavata a forza sotto una doccia gelida. Due mesi dopo è toccata a Letizia, tornava dalla piscina, lo stesso furgone che si è fermato. Poi il seguito, l'orrore, le minacce, le botte, la violenza e qualcuno, avvolto coperto, che riprendeva ogni scena con una cinepresa. Sabine e Letizia si tappano gli occhi e orecchie per non vedere, per non sentire i passi che rimbombano inesorabilmente. La scala di legno scricchiola, i passi scendono, avanzano per il corridoio, si avvicinano. Loro si stringono disperatamente, non parlano, non respirano neppure. Poi una voce forte, imperativa grida: «Qui in fondo c'è una porta! Apri! Che aspetti? È chiusa a chiave! Buttatela giù! No, signore! Non serve, la chiave è qui appesa al gancio. Muoviti allora!» I cuori delle piccole battono all'unisono. «Dio ci proteggi», ci sussurra Sabine. La luce delle torce illumina la tana e l'informe fagotto di stracci che giace immobile sulla branda. «Maledetto! Le ha uccise!» E invece qualcosa si muove, un lembo della coperta si sposta, due testoline luride compaiono, quattro occhi sbarrati e accecati dalla luce. Il commissario ha 50 anni. È un duro che ha visto tanto male nella vita, ma quando dice con dolcezza «Venite bambini, è finita, li riportiamo a casa», i suoi occhi sono umidi. Patrizia De Bijck van der Noot in libreria con L'uomo dagli occhi glauchi. Corbaccio Editore, 295 pagine, €18,60.